in bank, lavoravamo sopra una banca, stipendio basso, profilo alto, culo alto, anni di pattinaggio, anni di passaggio, è ancora lungo il viaggio. Insieme, sempre insieme, vita e morte, sei il mio miracolo, protagonista dello spettacolo. Mi fermo e ti penso, ti vorrò sempre con me nell'eroina del successo. Materasso a terra tutte le sere, scopavamo via la polvere dentro all'eccesso del piacere. Oggi mi sento come Montale, ossi di seppi abbandonati lungo il mare. Amore interminabile, saga di Lost, figli di una disciplina inutile. Alti e bassi skip cross, tra alti e bassi ricross, di sottofondo colora il nostro mondo, messo a nudo a tutto tondo. L'arcobaleno della vita, mano nella mano, entriamo dall'uscita di sicurezza. Sto con te non per sicurezza, ma perché ti amo, e amo se lo sussurriamo all'orecchio mentre scopiamo. Sta all'occhio mentre scappiamo. Oggi splende il sole, fuori piove. Leggo il libro cuore, ma non mi commuove. Fa freddo, fungimi da coperta. E ringrazio Dio che mi ti ha riscoperta. Ogni 7 novembre l'anniversario, ora che siamo nudi si chiuda il sipario. Sei la mia grande bellezza. Vinciamo l'Oscar, DiCaprio ci disprezza. Fuori dagli schemi, dei pregiudizi, il tuo sorriso rientra tra i miei vizi. Ogni mattina mi lasci mezzo grisbì, leggo il biglietto, ti amo, HCV.